gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da sempre aspetta il ballo. L'amore qui non passa mai. Oh. Scambiano i silenzi, c'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare, e sotto scalabui di questi angoli dispersi, c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare, un cane si accontenta di pisciare contro i muri, nessuna terra nuova per cui valga fare i duri, un gatto resta fermo a fissarlo sopra i tetti. Quella ragazza ha perso anche l'ultimo dei denti. L'amore qui non passa, l'amore qui non passa, non si vede ancora. L'amore qui non passa. L'amore qui non passa, l'amore qui non passa, non si vede. Nell'ombra dei ricordi di chi non ha mai vissuto, c'è uno che somiglia a te e non l'hai riconosciuto. Nei soldi che contiamo c'è una smania devastante di rimpicciolire il tempo, di accorciare le distanze. Nei segni che conservo sulla pelle si cicatrice, se bruci forte ancora non è vero quel che si dice. Da qui è passato amore e se n'è andato spento, ma sei rimasta mia, sei intrappolata dentro. Forte ancora, l'amore qui non passa mai.